sera, siamo qui alle 19.06, i nostri potentissimi mezzi. Casey, buonasera. Ciao reverendo, buonasera. Ciao doctor, benvenuto a questa nuova diretta speciale, un'altra serata sul... Prova, sì, glielo diciamo. No, glielo dai, diciamo. Non diciamoglielo, ancora è troppo presto. Ma se ne accorgeranno secondo te? Indubbiamente. Senti qua, io parlo e si abbassa da solo la musica. Questa è la nostra impresa di oggi. Siamo riusciti a fare un'altra cosa come una radio vera. E quindi, per quanto mi riguarda, io sono a posto e ho concluso la giornata. Infatti non ho un cazzo da dire stasera. Ebbene sì, sembriamo quasi una radio seria, una radio normale, tipo Radio Blackout, un salutone a tutta Blackout che personalmente mi fa sognare da anni. Ma salutiamo anche chi non è qua con noi, prima di tutto ascoltatori e ascoltatrici di Wombat, fateci sognare. E per farci sognare potete scriverci, graziosamente scriverci. Vuoi ricordare i contatti, doctor? Va bene, dai, li ricordo io, allora... Sono un attimo confuso. Andate sul blog di Wombat, wombatnoblogs.org, wombat.noblogs.org, e trovate un fantastico link al fantastico pad, si chiama Diretta Wombat, che potete scriverci in diretta assolutamente. Se siete più obsoleti invece, per modo di dire, andate sulla vostra mail e scrivete una mail a frittole@gattini.ninja. Quindi eccoci, inizia un'altra puntata di Radio Contatto, detta anche Radio Aperitivo, Radio Live. Molto aperitivo stasera, questa bella musichetta che ci regali. È solo per scaldarci un pochino, poi andiamo sulle cose più forti. Art Blakey e The Jazz Messenger hanno aperto questa diretta di Radio Contatto e contattiamoci, quindi contattateci come è successo anche le altre volte, intanto per dirci se vi piace la musica, se la sentite bene, perché l'ultima volta era andata un po' peggio. Grande, c'è già un feedback. Qui abbiamo la prima sorpresa di questa serata aperitiva, che sta salendo, si sta arrampicando. Ed eccolo. Sì, io mi arrampico sugli specchi, lui si arrampica per arrivare in studio. E lui lo conoscete ormai molto bene. Ed è Albus Silente. Vai Albus, è tutto tuo il mic. Oddio, veramente? Ma che devo fare? Ma non saprei proprio cosa dirvi, sono appena arrivato. Vabbè, noi ci stiamo trastullando, quindi vai tra. Ma avete già preannunciato un po' cosa succederà stasera? Niente. Assolutamente no. Una grande sorpresa, una grande sorpresa sarà. Sorprese, ci piacciono le tastiere che non funzionano. Salutiamo subito la nostra carissima Modesta. È un piacere. Che dice che siamo super sexy, ma ci credete? Ma ti rendi conto? Ne dubito, ma facciamo del nostro meglio. Grazie Modi, un abbraccione. Anche due. Pezzo leggero, è la canzone del falegname. Qui c'è il martello sgonfio. Mi mette un po' a disagio sto silenzio, devo dire. Billy Cobham, Funky Groove. Fatevi avvolgere da questo gruppo. Sul pianeta della leggerezza, un altro giorno, ma oggi, anche se oggi volevamo fare Radio Pipponi, i nostri ospiti non si sono ancora presentati, per cui insomma apprestate le droghe legali soprattutto, mettetevi comodi e iniziamo un'altra puntata di Radio Contatto e Radio Conato. Radio Conato, se vi va male l'aperitivo, sapete chi ringraziare. Speriamo anche di deliziarvi con un po' di musica dal vivo stasera. Albus si è attrezzato, ha portato tutto quanto. Abbiamo altri ospiti che ci raggiungeranno a suonare altre cosucce bellissime. Insomma, vabbè, siamo qua a tergiversare. Vorrei leggere la mail che ci ha scritto da Marti. Salutiamo. Ci ha scritto mercoledì, ma non t'abbiamo letta. E almeno ci hai richiesto un pezzo e te lo mandiamo assolutamente. Intanto ti ringraziamo per la riflessione, perché insomma. Condividiamo questa riflessione che ci è arrivata via mail da Martina, che riguardava l'argomento distanziamento sociale di cui stavamo parlando un altro giorno. Allora, visto l'argomento distanziamento sociale, vorrei far presente anche la difficile situazione che stiamo vivendo noi del settore sociale educativo, un settore che è sempre stato messo nell'ultimo gradino dell'interesse pubblico, nonostante sia uno dei settori fondamentali. Lo sfruttamento delle persone che lavorano nelle cooperative sociali educative è un tema scottante che in questo momento è diventato veramente una vergogna. Oltre agli educatori, penso anche a tutte le famiglie in situazioni di difficoltà, di violenza chiuse in casa, persone disabili e famiglie che in questo momento devono far fronte a una situazione complessa, senza poter avere i pochi aiuti esterni che avevano prima. Dopo questa situazione ci dovrà essere una fortissima risposta sociale, se no altro che quarantena, ci ritroveremo in un isolamento sociale totalizzante. E riflessione veramente, veramente azzeccata. Grazie mille, Martina. Sì, assolutamente, da non sottovalutare. Ci sono tanti mondi paralleli che non riusciamo a vedere contemporaneamente, e ci farebbe piacere ricevere testimonianze anche dal mondo dell'educazione, non solo. Si appresta a fare la cosa più sensata della serata. È venuto bene. Bene, questo sì. Schioppo, guarda. Bene, sì, alle 7:20 è l'ora. Non so se si è sentito l'effetto speciale, ma abbiamo versato il bicchiere. Ce ne sentirete anche il nostro glu glu glu glu glu.

mentre siamo qua a non fare niente, io vi aggiorno col mio compitino della settimana, che è la rassegna scappa. Vado su DuckDuckGo perché non uso Google, vado su sezione notizie e scrivo scappa. E questa settimana c'è scappa per amore dalle restrizioni, acciuffato. Un 17enne di Vietri sul Mare la scorsa notte si è reso protagonista di una fuga a bordo dell'auto che va sottratto di nascosto alla madre. Ai militari dell'arma ha poi raccontato che era uscito di casa per raggiungere la fidanzata. Non so se era un'autocertificazione sufficiente. Comunque questo è il 5 aprile. Diciassettenne con l'automobile. Esatto. Senza patente. Notevole. Qui ci abbiamo un po' meno divertente, ma a me ha fatto ridere. Cioè, scappa dai carabinieri e tenta di nascondersi dietro alcune sedie in una scuola. Insomma, c'è stato un inseguimento con due pattuglie dei carabinieri, perché c'è stato un incidente, quindi questo 29enne è scappato e poi ha abbandonato il mezzo e lo hanno trovato mentre cercava di nascondersi dietro alcune sedie all'interno del cortile di una scuola privata, 8 aprile. Peccato non c'erano... Immagine, era vuota. Sì, e non c'erano altri posti o posti migliori in cui nascondersi. Sempre meno ridere. Però c'è una buona notizia. Non ho salvato il sito, ma ci hanno detto che ci dicono che l'agnellino Daniel, destinato al macello, scappa e riesce a salvarsi. Oh, una buona notizia. Una su mille ce la fa. Complice solidali con l'agnellino Daniel, scappa e riesce a salvarsi, non diventerà più una pietanza. È stato trovato mentre zappettava in mezzo ai campi a Kyons il 7 aprile. Vai Daniel! Poi ci abbiamo una donna di 80 anni, vestita con il pigiama e un camice azzurro, è scappata dall'ospedale di Pontedera, Pisa. Locale, il 3 aprile, insomma. Articolo del 3 aprile, scusate. Era positiva, è stata bloccata a circa 2 km di distanza. Ci sta. Vabbè, a parte il fatto che avesse il pigiama, che è quella cosa che fa ridere fondamentalmente, anche se mi chiedo cosa mai avrebbe dovuto indossare. Giustamente, militari e agenti hanno chiuso la strada, deviato il traffico per evitare qualsiasi tipo di vicinanza con la donna, giusto? Passiamo ad altro. A Cornuda, non mi sono informato dove si trovi, ma i carabinieri della stazione locale, impegnati sul territorio, hanno arrestato un 45enne. Alla vista dei carabinieri l'uomo è scappato con la propria auto e scattato l'inseguimento. Una volta fermato ha offerto uno spinello ai militari, che hanno perquisito il mezzo trovando gli attrezzi del mestiere. Vabbè, ci ha provato almeno, dai. Dici, già che sei nella cacca, offri il calume della pace. Assolutamente non condividiamo questi comportamenti. Però abbiamo un dovere, abbiamo il dovere di informare. Abbiamo il dovere di informare. Il prossimo è davvero divertente, se vi capita di vedere il video. Pescara corre sulla spiaggia e scappa dai controlli. Fermato e denunciato. Fantastico. Però il video è bellissimo. Un giovane in tenuta sportiva corre sulla battigia della riviera in pieno centro e viene avvistato da una coppia di agenti della Guardia di Finanza che gli intima l'alt. Il runner, per tutta risposta, non si ferma, ma accelera e fugge con uno sprint all'inseguimento degli agenti. Il video è veramente... Sì, sì, si vede proprio che lui... Come continua l'articolo, beh. E allo sportivo, che pensava di prendersi gioco dalle forze dell'ordine e dell'impegno che tutti i pescaresi stanno mettendo nel rimanere a casa, verrà contestata anche la resistenza pubblico ufficiale. Pensava di prendersi gioco delle forze dell'ordine. Colui. Come ha usato, no, davvero. Comunque il video fa molto ridere, in effetti, perché c'è lui tranquillissimo che viene ripreso da gente al balcone. Tranquillissimo, corre sulla spiaggia da solo. A un certo punto gli vanno incontro sti due. Beh, sono guardie. Sono tutti neri. Gli vanno incontro. Il primo, cioè, si vede proprio, gli butta, prova, è lì che prova a fermarlo, gli butta la mano davanti, però non riesce neanche, cioè alle spalle glielo fa, e il runner molto tranquillamente tira dritto e accelera il passo. Ma tranquillamente. Il runner, lui è fatto per correre, di correre. Dici, Allora, scriveteci se vi molesta questa rubrica o se avete cose da segnalare. Ricordo frittole@gattini.ninja, perché si fosse sintonizzato in questo momento, siete su Wombat, Radio Wombat. Anche qua un altro messaggio, ci arriva e ci chiedono se il Berlusca è sempre a Nizza. Che dici, reverendo? Sei informato? Non mi sono informato. Sulle rocambolesche fughe del cavaliere. In effetti la settimana scorsa è stato molto divertente. Però no, non mi sono informato. Suppongo che sia ancora lì in dolce luna di miele. Ma chi lo schioda? Ma chi lo schioda? E ci mancherebbe. Comunque andrò a cercare per voi che avete queste domande. Le domande del Venerdì Santo. A proposito, oggi è morto Gesù. No, se lo dici così. Sì, va bene. No, io volevo chiederti cosa ne pensavi del divieto di andare in chiesa a Pasqua. Facciamo andare la musica, va. Come un reverendo, come te. No, scusa, te sei il never end. Chissà se si può dire in radio che l'unica chiesa che illumina è quella che brucia. Vabbè, l'hai già detto. No, ho chiesto. Ah, devo finire sta rassegna stampa. Vai. Mentre dottor io ci, no, ci cerca notizia sul bello. Una cosa simpatica sulla chiesa. Ah. A Verona, in particolare a Verona, un cittadino tedesco di 24 anni scappa dall'ospedale per tornare in Germania, ma viene fermato dalla polizia ferroviaria. Era risultato positivo. Recuperato e bloccato dagli agenti, il ragazzo è stato affidato di nuovo alle cure ospedaliere. E poi niente, ci abbiamo l'ultima notizia, che è del 9 aprile di ieri. Nell'ambito delle verifiche alla legittimità degli spostamenti, nella giornata di ieri, verifiche alla legittimità degli spostamenti, in Viale De Gasperi, non mi ricordo dove, è stato fermato un uomo che ha subito esibito uno scontrino delle ore 18 ai militari, dicendo che era andato giustamente a fare spesa. Alla contestazione da parte dei militari, che erano le 23, l'uomo ha cambiato versione dicendo di essere un soggetto di diritto internazionale e di non riconoscere l'autorità dei carabinieri. Potrebbe partire la ola. Comunque, al secondo vano tentativo di vetare la sanzione, ha invece reagito veementemente al tentativo di identificazione dandosi alla fuga, ma venendo subito bloccato dai militari. L'uomo di 30 anni è stato quindi tratto in arresto per resistenza pubblico ufficiale. Anche lui. Comunque, sappiatelo, non vale affermare di essere soggetti di diritto internazionale. Cioè, anche se non riconoscete l'autorità dei carabinieri, loro ce l'hanno già riconosciuta, ecco, anche senza di voi. Cioè, bene, è una cosa a senso unico, praticamente. Assolutamente sì. Senti, c'è Albus che sta provando, no? Sta facendo dei rumori strani. Secondo me si scalda? Si sta scaldando, sì. Comunque niente, io ho finito questa rassegna scappa. Era una parte del materiale di oggi. Diteci se vi siete sentiti insultare o insultati, o se avete delle segnalazioni, per favore, è molto importante. Senti qua che Charlie. Fantastico, allora salutiamo anche Mango e Papaya, a cui piace la radio. Piume gonfie. Albus, vai. Sì, no, mandiamo un saluto a Mango e Papaya, un... per i due pennuti che ci ascoltano da Bologna, in via dello Scalo. Bologna. Grande. Thank you. vi saluto anch'io. A chi? A quelli di prima, delle prime gonfie. Ah, ero impegnato. Ah già. Finché siamo qua a riscaldarci, volevo giusto leggere due paragrafi che mi hanno colpito dell'articolo sull'obbligo di mascherina uscito l'altro giorno su JAP l'8 aprile, il blog degli scrittori Wuming del collettivo. Inventatelo. Sostenere che un gesto ha una dimensione teatrale non significa negare che abbia anche altre ragioni, oltre a quelle più spettacolari. L'agire sociale ha sempre una componente teatrale. Guardare ed essere guardati, invidiare, sedurre, attirare e distogliere l'attenzione. Non siamo dualisti, né crediamo all'opposizione tra natura e cultura, quindi non ci interessa distinguere, nelle misure di contenimento del contagio, gli aspetti scientifici da quelli di facciata. La mistificazione avviene quando si pretende di fornire una giustificazione tecnica per un provvedimento politico, usando a sua volta la scienza come una maschera per coprire altri interessi. Chi sostiene che il contenimento del contagio impone di stare a casa fa esattamente questo, perché il contagio si contrasta con la distanza fisica tra i corpi, non c'entrano le case, che sono ambienti chiusi favorevoli al diffondersi delle malattie, dove una certa distanza è pure difficile da mantenere. È questo rendere teatrali il divieto di frequentare i parchi, le multe per la passeggiata clandestina, le mascherine indossate all'aperto e i camion dell'esercito per trasportare le bare. I morti c'erano e c'era la necessità di seppellirli fuori dai cimiteri della Bergamasca, ma la scelta di quel mezzo di trasporto tra i tanti possibili ha una giustificazione teatrale che non può essere negata. Ed è spettacolo anche il divieto di celebrare i funerali, perché si potrebbero trovare mille modi per farlo lo stesso, almeno coi parenti stretti a debita distanza, come del resto hanno scelto di fare altri paesi. Vietare funerali è solo un modo di alzare l'asticella della tragedia. Se non possiamo nemmeno piangere i morti al cimitero, allora siamo pronti per accettare qualunque obbligo. Vale tutto. Vale tutto, eh? E niente, vorrei ringraziare i vari Wuming, quelli che scrivono sul loro blog, perché mi stanno donando un po' di aria fresca. We'll be right back. E niente, vi ricordo che Wombat sta facendo un sacco di roba. Davvero. Ogni sera dalle 19 alle 21 ci sono queste dirette speciali, sono pienissime di contenuti super interessanti. Oggettivamente la nostra è anche la più ignorante. Sì, si va da un estremo all'altro. Noi venerdì scorso c'era un gran casino, musica dal vivo. Invece stasera c'è questo clima molto avvolgente. Ma non continuerà così. Assolutamente. Infatti ci stiamo preparando per strimpellare. E fatecelo un pezzetto, fatecelo. Stavamo aspettando altri ospiti, però che tardano. No, stiamo solo... Passate voce, ditelo a tutti, amiche e amici, vi stiamo aspettando qua in diretta per eseguire per voi un pezzone. Allora, qualcuno ci ha scritto bella. Bella a te. Bella. Ti leggiamo. Comunque no, mi piaceva tornare sulla storia delle chiese a Pasqua, no? Ah, giusto, dimmi. Che no, simpatico come in questo paese sia così facile parlare di minchiate che distolgono poi l'attenzione dalle cose. Quindi ora c'è sta storia delle chiese aperte a Pasqua. Vabbè, doctor, anche noi ci mettiamo in questo dibattito delle minchiate, insomma, facciamo la nostra parte. No, infatti, ci sono minchiate di tutti i tipi, dai. Comunque, questa storia vede, insomma, protagonisti, vari esponenti politici e non solo. Ora sto leggendo che anche Fiorello scende in campo contro Salvini. Dicendogli che si può pregare ovunque, anche in bagno. Non servono le chiese aperte a Pasqua. C'è ragione, guarda, io faccio delle preghiere in bagno. Scusate la trivialità. C'è da dire invece... che... No, dipende quanti problemi di stitichezza hai. Poi c'è quest'altra bellissima uscita pubblica. Sì, era una battuta di merda, scusa. Sì, rimanere in tema, no? E quest'altro tizio, che non dirò chi è, però è un assessore. Quindi, questa bellissima uscita dice: si aprano le chiese a Pasqua e si permetta di partecipare ai capi famiglia. Con la C maiuscola? Con la K. In rappresentanza della propria società domestica, con due persone per panca, una panca sì, una no. Bravo, ha dato anche le direttive alla Protezione Civile. Il resto, e poi conclude così: il resto è cianciare di politici impauriti di destra e di sinistra, senza virilità, senza speranza. Ma come senza virilità? È veramente epico. Ma come senza virilità? In che senso? Lui ha. Senza virilità è veramente un'offesa immane. Proprio il patriarca questo tizio, eh? Cazzo. Thank you. poi volevo continuare salutando quel tizio che è entrato a gamba tesa, diciamo, gergo calcistico, è entrato a gamba tesa nell'ennesima diretta Facebook che stava facendo Salvini. No, in che senso? Cosa ha fatto? Eh sì, il tizio, un tizio, un vicino di casa di Salvini, insomma, o un dirimpettaio, insomma, uno che c'ha il balcone nei pressi del balcone di casa di Salvini. Ha mostrato la fava? No, no, molto meglio. Ha semplicemente fatto una serie di enormi urlacci gridando che erano tutte stronzate. Erano tutte grandissime stronzate le cose che stava dicendo Salvini. Con la Y stavolta. Vabbè, ogni tanto ci vuole. L'avevo ancora letta questa cosa. Sì. Continua la rubrica minchiate pasquali. C'è Forza Nuova che chiaramente non ha perso l'occasione per dire la propria minchiata e ha annunciato che sfiderà i decreti e a Pasqua marcerà verso San Pietro. Mai Forza una Pasqua Nuova senza Gesù Cristo. Never. Forza Nuova marcia su San Pietro. Ma proviamo a controbilanciare a queste notizie veramente di merda con musica un pelo decente. Albus, quando vuoi io sfumo. Sì, io potrei dedicare una canzoncina a tutte le amiche, gli amici, i compagni e le compagne che in questo momento si trovano in campagna e fanno i fricchettoni. Ma merde! No, in senso buono. La merda in campagna è una cosa bellissima. Appunto. Sfumo, eh? Sfumo. Sfuma, mi serve qualcuno che mi faccia vedere il testo. Si sente la canzoncina? Chitarre? In un vecchio casolare presso Urbino sono andato ad abitare con mio cugino. Ma nessuno dei due voleva lavorare. Avevamo in testa i rasta tricolore. Passavamo il nostro tempo ad ascoltare la musica reggae, Bob Marley, Peter Tosh, Jefferson Airplane, i primissimi Pink Floyd. Erano bei tempi, i tempi d'oro. Erano bei tempi, tempi d'oro. Ma qualcosa si doveva pur mangiare. Cosa abbiamo fatto? Una piantagione. Ho buttato pochi semi sopra il prato di gran turco, di tomato e di potato. Ho aspettato ed ho aspettato, aspettato. Nel frattempo ho aspettato ed ho cantato la musica reggae, Bob Marley, Peter Tosh, Jefferson Airplane, i primissimi Pink Floyd. Erano bei tempi, i tempi d'oro. Erano bei tempi, i tempi d'oro. Sono cresciuti pomodori in un baleno, ravanelli l'insalata lì fino al cielo, con i cesti tutti pieni di verdure. Siamo entrati dentro casa a cucinare, ma una volta sazio ho visto mio cugino che ballava sul tappeto tibetano. Lui ballava e vorticava come un pazzo e cantava a squarciagola questo pezzo di musica reggae. Bob Marley, Peter Tosh, Jefferson Airplane, i primissimi Pink Floyd. Erano bei tempi, i tempi d'oro. Erano bei tempi, i tempi d'oro. Ma che tristezza, grande amarezza. Ma le piogge sopra Urbino sono nocive, sono piene di sostanze radioattive. Così l'orto della gioia si è ammalato, sono finiti all'ospedale di Loreto. Ci hanno detto ora dovete riposare, siete vittime di un'intossicazione. Ma di notte noi saliamo sul balcone con il nostro mangianastri ad ascoltare la musica reggae. Bob Marley, Peter Tosh, Jefferson Airplane, i primissimi Pink Floyd. Erano bei tempi, tempi d'oro. Erano bei tempi, i tempi d'oro. Siamo due frigatori, coltiviamo pomodori. Siamo due frigatori, isolati dalla società, presso Spagna. Siamo due frigatori, coltiviamo pomodori e non solo. Mistico Albus. Ma grande Diesis che si è inserita a metà della canzone. Salutiamo anche Diesis. Salve Diesis. Ci ha raggiunti. Come questa sì, era dedicata in particolare, dai, diciamolo, a Natalia, che si trova da sola a far la fricchettona in campagna. No, da sola. Purtroppo sì, non ha nessun cugino o cugina che, con cui coltivare i pomodori, i ravanelli. Nessuno che vuole approfittare di questa situazione di libertà di cui lei può godere. Speriamo, speriamo che qualcuno presto la raggiunga. Se no l'andremo a trovare noi quando finirà questa situa. Assolutamente, non vediamo l'ora. Io vi inviterei a prepararvi, perché sta arrivando il clou della serata. Ora che Diesis ci ha raggiunto, let me get head down, DC, what's happening? You might never, ever come down. It's a too long to get this high off the ground. Don't run, just stay up one more time now. You might never, ever come down. It's a too long to get this high off the ground. E un'altra canzoncina live e che la dedichiamo a tutti i reclusi, a tutti i reclusi, a tutte le recluse. Questa antica canzone popolare, antica perché dicono che risalga ai primi anni dell'Ottocento, e questa è la storia di Rodolfo Foscati. Caro pa, caro... Calma, calma, doctor, per favore. Caro padre, vi scrivo piangendo questi righi per me dolorosi e che mi restano tanto angolosi nel vedermi trattare così. E scrivendo la mano mi trema e di tutto vi faccio palese, e m'hanno tolto la veste borghese, e m'hanno tolto la mia gioventù. Caro padre, che brutti momenti, qui non contano né pugni né schiaffi. E disse il guardia, levate gli baffi, e l'avrei presa la spina nel corno. E la mattina del 20 di marzo il guardiano mi venne a vedere, che con sé ce l'aveva il barbiere e una scranna per farmi sedere. Con cattive maniere mi prese, il rasoio l'aveva perfetto e mi raschiava, parevo un capretto, e i miei baffini li vidi andar giù. Quando poi gli ebban fatto tutto, il guardiano m'accennò con un dito e disse, questo gli è vostro vestito. Ni vederlo mi fece tremare. Questo numero che oggi indossate vi cancella dal nome il casato. 107 sarete chiamato e a Rodolfo Foscati mai più. 107 sarete chiamato e a Rodolfo Foscati mai più. Applausoni, applausoni. Applausi finti, Brando. Ci conteniamo. Quando ce li avremo gli applausi finti? Molto breve direi. Intanto, mentre cantavo, è stata un'emozione bellissima perché ho sentito un profumo fantastico, inebriante, entrare nello studio. È stata una cosa che mi ha distratto, infatti ho sbagliato tutto. Insomma, questo profumo inebriante è il profumo che accompagna Rosa Canina ovunque si sposta. Ciao Rosa. Benvenuta. Quindi avrete capito che Rosa è arrivata in studio. Il profumo dell'erborista. Buonasera. Ciao. Benvenuta. Cosa sei venuta a fare, Rosa? Almeno io so, lo so. Io no. Ti stavo aspettando. Wow. Beh, come qualcuno sa, appunto, sono venuta a parlarvi dell'iniziativa letteraria di cui già avevamo spifferato qualcosa la settimana scorsa. Farfugliare confuso la settimana scorsa. Vediamo se questa volta riusciamo a fare di meglio. Sì, io non ce la potevo fare. Nemmeno io. Anche perché non era previsto. Assolutamente no. C'è sfuggito di bocca. Ma che dici? Leggiamo prima l'Ansa? Avete spoilerato la settimana scorsa? Abbiamo, sì, abbiamo spoilerato, abbiamo provato. E oggi fateci sentire il trailer. Allora. No, abbiamo una lettera da leggere per questa iniziativa letteraria. Aprite bene, benissimo le orecchie, ascoltatori e ascoltatrici. Stiamo parlando proprio con voi. Dai. Dai, la leggo. Allora, si chiama E verrà il dì, iniziativa letteraria. Questa mail dice: sei così ottimista che tutti ti infamano o credi che al peggio non ci sia mai fine? Ti lasci dolcemente cullare nel presente o il futuro è già impresso chiaramente nella tua coscienza? Sei in contatto con ogni universo parallelo o il tuo cervello è l'unico mondo possibile? Se proprio questa realtà ti doveva toccare... Aspettiamo che finisca l'applauso. Se proprio questa realtà ti doveva toccare, impasta le tue meningi lucida alla sfera di cristallo. Ascolta la sinfonia dell'infinito. Sblocca l'attesa, aggrega qualunque altrimenti in un unico adesso. Poi corri a prendere carta e penna. Dai ascolto alle tue più deliranti premonizioni, alle più razionali previsioni, o dici semplicemente quale scenario ci aspetta per il futuro. Quando è scritto tutto quanto, invio il tuo testo a distopie@esiliati.org e ogni venerdì dalle 19 alle 21, quindi a partire dalla settimana prossima, a questo orario, su queste frequenze, leggeremo i testi in diretta su Radio Wombat e assegneremo ricchissimi e casualissimi premi. Perché? Perché la nostra idea di futuro sembra sgretolarsi davanti ai nuovi sistemi di controllo, al distanziamento sociale, alle prossime pandemie già dietro l'angolo. Perché i sentimenti si alternano ad una velocità pazzesca. Perché ci sentiamo già cambiato. Perché vogliamo andare oltre, per ora, scavando con la forza propulsiva dell'immaginazione. E un amico ci ha scritto: sogniamo il tempo in cui supereremo lo stato di cose presente. Forse soccomberemo all'incubo tecnocratico del totalitarismo biomedico, forse le nostre vite torneranno alla quotidianità di prima e tutta questa storia sarà solo un brutto ricordo, mentre sprofonderemo di nuovo nel dolce orrore della mercificazione totale delle nostre esistenze. O forse è giunto il momento di realizzare i nostri sogni. Ma per trasformare il senso ineluttabile della fine in quello visionario della rinascita, serve tenere insieme la lucidità dell'analisi e la capacità di sognare per muoversi nelle logiche oniriche che ci connettono con l'invisibile, perché è lì che si trovano le alleanze e le protezioni adeguate ai tempi. Muoversi sulla linea che separa il sogno dalla realtà e all'occasione varcarla senza per questo impazzire è la via del rivoluzionario. Solo riuscendo a immaginare, a sognare un mondo differente da questo, è possibile cambiarlo veramente realizzando l'inaudito, ciò che per altri è impensabile, impossibile, perché non ci sono alternative. Non so se era chiaro. Era chiaro, avete capito voi 16 entità che ci state ascoltando in questo istante? Ci riferiamo proprio a voi e a quelli, agli altri che ci ascolteranno poi, che ascolteranno il podcast. Vi chiediamo di condividere qualcosa che, qualunque cosa che voi chiaramente dovrete mettere per iscritto e mandare all'indirizzo di posta che distopie@esiliati.org. ecco, quello. e noi lo leggeremo, lo condivideremo con tutto il mondo. E vi ricordiamo che abbiamo messo in palio degli incredibili premi. che per il momento non sappiamo come consegnarvi, visto che avevamo pensato di darveli al mercato di Piazza del Carmine, che al momento è sospeso, però troveremo il modo. Alla peggio ve li spediremo per posta, quindi provateci, scriveteci. Ci saranno anche i premi, che aspettate? Assolutamente. I premi chiaramente sono dati a caso, senza competizione. Sì. Non c'è una competizione. No, no, tiriamo dadi ogni volta che leggiamo uno scritto. Mi applaudo, in effetti. No, allora, ripeto. Dai ascolto alle tue più deliranti premonizioni, alle più razionali previsioni, o dici semplicemente quale scenario ti ci aspetta per il futuro. E quando è scritto tutto, inviacelo, perché davvero vogliamo leggere. Vi aspettiamo numerosi. Sì, sì, davvero. Siamo curiosi di andare oltre con l'immaginazione, oltre sto momento, oltre a sta merda. E vogliamo capire che succederebbe se saltasse l'internet. Che succederebbe se domani mi sveglio e non ci sono più i palazzi del potere? Se chiudessero tutti i supermercati. Che succederebbe? Insomma, tanti che, tanti ma, tanti altrimenti. Anche tanti boh. Tanti boh, tantissimi boh. Anche i boh sono importanti. Però chiediamo a voi di darci una chiave di lettura, insomma. Intanto abbiamo un altro messaggio per Rosa. Questa mattina, salutala per favore, perché ti sta stalkerando. Ci sta scrivendo di continuo che è una tua fan. Ciao Martina, grazie, sei incredibile. Ti lova. E ci segui sempre, quindi sì, cuoricini. Ti scrive sempre, quindi vabbè. Ti abbiamo salutata. Insomma, Rosa, hai qualcosa da aggiungere? Come ti è venuta questa idea del concorsone letterario, di questa iniziativa Everaldi? Oio, è partita l'intervista. Va bene. Come mi è venuta? Mi è venuta pensando al fatto che proprio in questo momento, così bombardati dai media, ci ritroviamo in uno stato un po' emozionale, confuso, sospesi tra la paura, l'agitazione, la gioia. La gioia non molto spesso, in realtà, vabbè, dipende un po' dai luoghi, qualcuno più, qualcuno meno. Però, insomma, questo stato emozionale confuso ci ha un po' cancellato quello sguardo sul futuro che avevamo prima, almeno non so se per tutti è così, ma è quello che sento intorno a me. E quindi proporre scenari possibili futuri di fronte a noi potrebbe metterci davanti, anche farci riflettere su quello che ci aspetterà. Tu sei proprio curiosa di sapere quello che ci aspetterà? Abbastanza, sì. Non sto nella pelle a questo punto, anche perché a forza di aspettare, aspetta. Manderei un pezzo che ci ha consigliato Diesis, davvero davvero interessante, poi ci facciamo dire il perché. E poi vi leggo uno spoilerino così dell'Ansa, che qualche giorno fa ha fatto uscire un articolo in cui già, vabbè, aveva anticipato il nostro concorsone, cioè ne avevamo parlato qualche ora prima e dopo poco vado sull'Ansa, leggo che l'Ansa sa già cosa succederà, ma rispetto a tutto. Per cui, dato che loro ce l'hanno così chiaro, io ve lo leggo così. L'Ansa sa. Ansia.it. Dai, va bene. Furto etico. Per arrivare degnamente a fine mese. Per boicottare senza rinunciare al cioccolato nuovo e alla maionese. Ciò che è prodotto senza diritto sindacale. Se lo rubo mi sento quasi all'eco solidale. Perciò rubo la coppa, rubo la pappa, rubo le Carrefour al bricomano, rubo la pidola all'Eurospin, rubo la penne come all'Euro Merlin, natura sì o italina, rubo con gioia media radical chic, rubo la Tiger al Bigotà, rubo chi sfrutta senza pietà. chi in voucher mi pagherà, a chi mi vuole in alternanza, scuola, lavoro, alla cooperativa che mi paga 5 euro mezzo all'ora. Ciò che mi manca non lo implorerò al mio caro padrone, glielo taccheggerò senza troppi dubbi di morale. Perciò con due giacche esco dalla Decathlon, con due maglioni dalla Benetton, rubo l'acqua alla Nestlé, alla Lipton io rubo il tè, rubo la benza alla Kuwait, alla macchinetta rubo l'Energate. Gli avocati di Israele costano meno se li peso come mele, gli anacardi e i pinoli io me li mangio tra gli scaffali. I 3x2 sono inutili davvero se tra le mutande c'è lo sconto 3x0. Wow. Furto etico per non pagare chi un giorno mi sfrutterà senza comprare con 20 euro la marmellata etica. Io me ne fotto dei vostri di taccheggio, io rubo tutto dal tè verde al taleggio, io me ne fotto del reddito di base, io rubo tutto dallo zenzero al polase, yeah! Eccoci qui, speriamo che questo brano vi sia piaciuto e ve l'ho voluto consigliare appunto non solo perché è scritto da un mio amico cantautore che si chiama, appunto il suo nome d'arte è Clepto Cantautorato Bolognese, lo potete trovare anche su SoundCloud se volete esplorare altre delle sue canzoni molto divertenti e nulla. Una canzone che può rendere un po', può sdrammatizzare un po' questa situazione in cui si parla tanto di supermercati, di spese, di persone che non riescono ad arrivare a fine mese, non riescono ad avere soldi per fare la spesa. Dunque questo amico ci dà qualche soluzione alternativa, ecco, mettendola in musica. E quindi speriamo vi sia piaciuta. Grazie, grazie Diesis per questo suggerimento, è bellissima. Attenzione, attenzione, ci scrivono già da... ci scrivono già a distopie@esiliati.org. Attenzione, un primo concorrente inaspettato. Come hanno fatto? Io non lo so. Non mi capacito. Ansia.it. Ok. Ansia. Beh, sicuramente meriteranno un premio per la prontezza, no? Sì, assolutamente, assolutamente, sono stati molto pronti. Ora vediamo anche se la qualità del testo è abbastanza interessante. Ve lo leggo. Coronavirus, niente come prima, cambierà la nostra vita. Il profilo della vita al tempo del Covid-19, l'unica certezza è una missione di incertezza. E già qua. Oi oi. Grande ansia. Parti bene. Ok, preparatevi gli antidepressivi. L'unica certezza è una missione di incertezza. Tutto quanto non sarà più come prima. Beh, questo... si è capito. Lo supponevamo anche noi, vabbè. Una prospettiva che in queste settimane di quarantena e dati statistici mette d'accordo chiunque: leader politici e speculatori, sociologi e influencer, star dello spettacolo e studenti, imprenditori e casalinghe. Non più come prima. Vabbè, questo l'hanno già detto, insomma, un po' ripetitivo. Lo stesso concetto diffidente che ha inaugurato fasi storiche come il dopoguerra, il post 11 settembre o l'avvento dell'euro, ma che applicato al quotidiano ci costringe a modificare il futuro. Dovremo abituarci a scambiare tempo in cambio di sicurezza. Questo già l'avevamo fatto. Anteporre il binomio diffidenza-distanza alle abitudini post-globalizzazione. Convivere con mascherine e guanti. Quello che segue è il profilo della vita al tempo del virus. Casa. E qua davvero si apre il sipario. Attenzione, ci sono vari punti, quindi segnatevele tutto. Attenzione. Quello che dovrete fare. Seguite questo breviario. Casa. Ci siamo stati molto e alcune abitudini rimarranno. Dovendo diffidare dell'ascensore, nel quale è difficile mantenere le distanze, continuerà la riscoperta delle scale. Wow. Almeno fino ai piani praticabili. Utili anche all'esercizio fisico. Esatto. Per garantire la sicurezza dell'ambiente domestico, si è mai diffusa l'abitudine giapponese di abbandonare le scarpe all'ingresso. Mascherine, guanti e detergente saranno i nuovi accessori obbligati che accompagneranno chiavi e portafoglio. Che dite, ragazzi? Capito, sempre in tasca, mascherina, guanti e detergente. Controlli. Dopo aver la difesa denti stretti, saremo costretti a cedere sul piano della privacy. Ok. Il tracciamento da parte di app per individuare assembramenti o contatti con persone infette è cosa di giorni, ma il futuro non ha limiti. No, non ha proprio limiti. Le app potrebbero spingersi a individuare comportamenti a rischio o sintomi pericolosi, a segnalare tempi di attesa per i mezzi pubblici e per l'ingresso nei supermercati. In base ai dati virtuosi raccolti, mi raccomando, alle app potrebbe essere affidata l'ultima parola per l'ingresso in luoghi di aggregazione. Ma, cioè, ragazzi, questo è tutto per la vostra sicurezza. Reverendo, a te è di certo non ti fanno entrare da nessuna parte. Per la nostra sicurezza. E chi non ha lo smartphone? S'attacca, mi sa. No, c'è il punto smartphone obbligatorio sotto pelle, tanto sicuramente. Bene, continuiamo, comunque mi sembra interessante. Lavoro e smart working, indietro non si torna, o meglio solo un po'. Il lavoro a domicilio si sta diffondendo forzosamente nel mondo delle imprese e delle PA, partite IVA suppongo. Superata la quarantena si tornerà in fabbrica e negli uffici, ma alcune attività resteranno efficienti anche ai domiciliari, virgolettato. Un vantaggio per molte famiglie, un rischio per molte situazioni di precariato che potrebbero essere ancora più marginalizzate. I domiciliari, ormai... Ma come lo vedete sto contadino ai domiciliari? Beh, che è un casino, non lavora più. Qualcuno al mercato qualche settimana fa mi disse: cosa ne penseranno le mie pecore quando gli dirò che voglio fare il telelavoro? Da far l'adesivo con questa. Commercio. Il coronavirus ha fatto volare l'online e la tendenza si rafforzerà ancora. Le nuove fasce di popolazione che si sono abituate durante la quarantena a fare acquisti a distanza forzeranno negozi e punti vendita, anche di medie dimensioni, a trasformarsi in centri di distribuzione a domicilio per ordini effettuati da cataloghi. Ecco cosa dovrà fare il contadino del futuro. I cataloghi. Diventare un programmatore. Segniamo. Il catalogo tutto. Delle pomace, quello delle... Avete preso appunti? Solanace. Trasporti pubblici. Dopo anni di campagne promozionali per scoraggiare l'uso dell'auto, ora bus, metropolitane e treni sono i nuovi nemici. Per riavvicinare pendolari e utenti, le società di gestione stanno studiando nuovi piani operativi, con spazi delimitati per l'attesa e corse a numero chiuso, in modo da garantire le distanze. Inevitabile, l'aumento dei tempi di attesa e la necessaria dose di pazienza per affrontarli. Le stazioni della metro e quelle ferroviarie hanno il problema degli spazi comuni da gestire. Dovremo abituarci a percorsi di distanziamento e controlli. I mezzi di trasporto verranno sottoposti a pulizie e disinfezioni dopo ogni corsa. Beh, era ora, Un po' di pulizia, un po' di pulizia. Era ora, l'interregionale per l'ultimo interregionale, sì, che ho preso per il Nord Italia era abbastanza letto. Comunque, se anziché pulirlo ogni 3 mesi, puliscono ogni mese. poi magari dopo ogni corsa inizia a essere bene. Continuo. Andiamo avanti, che qui la lista è lunga. Trasporto aereo, uno dei settori maggiormente rivoluzionato. Dopo decenni di espansioni delle low cost, riduzioni tariffarie e analoghe contrazioni degli spazi tra i seggiolini, le compagnie dovranno riprogettare le procedure. Termoscanner agli imbarchi, guanti e mascherine per i passeggeri, imbarco coi soli finger, posti contingentati e assegnati ad adeguata distanza, sanificazione frequente della toilette, pasti rigorosamente sigillati, pulizia e sterilizzazione degli ambienti a fine volo. Per le sale transiti degli aeroporti valgono le considerazioni delle stazioni. I serpentoni fitti disegnati dalle colonnine tendinastro apparterranno al passato. Ma che una cosa rivoluzione. Sono? Che cosa sono i finger? E le colonnine tendinastro? Quelle lì è semplice, sono anche in banca. Cioè, loro parla di passato, roba che io ancora non ho visto. Per me è ancora il futuro, no? Vabbè. Il dottor non ha ancora mai volato. E basta con queste passeggiate bucoliche, vola. Scuola. Scuole e università dovranno riorganizzarsi, distanze, buone pratiche e disinfettanti, maggior uso della tecnologia con corsi e lezioni online. Le università in particolare adotteranno il numero chiuso per chi la lezione vuole seguirla dall'aula, predisponendo sale di ascolto o accessi da remoto per gli altri. Esami frammentati in più date per gestire piccoli gruppi, limitando allo stretto necessario gli iscritti. L'università non la commenta nessuno, no. Perché abbiamo tutti dei passati traumatici con l'università. Almeno io. Pensando ai cattivi ricordi, ai brutti ricordi. Qualcuno pensava: peccato che non sparirà completamente a questo punto. Voi, vabbè, comunque, ecco, voi entità che siete a casa e che siete ancora all'università, ancora insomma, che fate l'università, cosa ne pensate di questa nuova... Boh, fateci sapere, dai. Gli esami online sono una figata. Vedi, allora vedi che c'è qualcosa di positivo, allora, e vai... Ristoranti. Verrà limitato il numero di clienti che vi accedono, con distanza di oltre 2 metri tra i tavoli e camerieri in guanti e mascherina. Romanticissimo. Le prenotazioni diverranno la norma e le file per entrare dovranno essere distanziate. Per i ristoratori è ragionevole mettere in conto una riduzione dei coperti. Ecco, che già è una cazzata. Vabbè. Meno accentuata per quelli che dispongono di spazi esterni. Per recuperare in parte i danni, quelli che durante l'epidemia hanno spinto sulle consegne a domicilio potrebbero strutturare questo servizio. Modifiche anche nell'organizzazione del lavoro in cucina per garantire sicurezza ai lavoratori e piatti a prova di contagio per i clienti. Per il lavapiatti, sti cavoli. Su questo però io vorrei un approfondimento, ansa.it, se ci puoi dire come funzioneranno questi piatti a prova di contagio, perché deve essere una cosa incredibile. Aumenteranno le dark kitchen, quelle cucine aperte solo per la consegna a domicilio. Quindi tocca pedalare, che è uno dei lavori del futuro. Mi immagino piatti che ricoperti è già del presente. Ma il cielo fa un sopra. Esatto, un saluto ai rider all'ascolto, come sopra dice Albus. Sotto. Palestre e sport. Le realtà di grandi dimensioni si attrezzeranno con percorsi su prenotazione costruiti sull'uso di macchine ad personam e sanificazione a fine turno, ma la nuova situazione spingerà a puntare di più su corsi online con personal trainer in video che guidano lezioni ed esercizi a casa. Aumenteranno gli acquisti e gli affitti temporanei di attrezzi e strumenti. Difficile ipotizzare gli sviluppi per lo sport amatoriale di contatto come calcio e basket. Comunque, parola dell'anno, sanificazione. Ma voi ci avete provato a fare dello sport col video da casa? Allora, qui c'è sul pad c'è qualcuno che chiaramente si preoccupa. Ma è Bricco Baldo, è vero? C'è anche la leggenda. Bricco Baldo ci chiede: e i concerti e le discoteche giustamente Beccobaldo è un super giovane e vuole sapere come andranno le sue serate e le, no, e le mie, anche mi ci metto anch'io fra i super giovani. che dice la... Ah, vedi, guarda, è proprio il prossimo punto, guarda. Eccolo. Capita a fagiolo. Non stiamo nella pelle. Cinema, teatri, concerti, discoteche. I posti potrebbero essere assegnati con prenotazione, numero limitato di spettatori, comportamenti meno espansivi, percorsi filtrati. Capito, Bricco, te vai in discoteca per imbroccare, percorsi filtrati. Esatto, distanziamento sociale anche in discoteca, non potrete limonare mai più. È finita l'era dello struscio. Devi limonare a un metro di distanza. Lingue lunghissime. Comunque dai, pensavo peggio. Io mi immaginavo già quel videogioco in cui si ballava col joystick in mano e ognuno da casa sua che ballava. Però potrebbe andare meglio di così. Bene. Rifiuti. La rivoluzione Greta ha dovuto incassare il colpo. Povera Greta, è sempre incassare colpi. Se è vero che lockdown e quarantene mondiali hanno azzerato quasi livelli di inquinamento, mascherine, guanti e confezioni usa e getta sono rifiuti non semplici da smaltire. Cara Greta, sarà un duro colpo. E chiude così, eh? E chiude così. Ah, intanto, guarda, c'è... ci risponde su... ci risponde Bricobaldo, dice: non vedo l'ora di tornare a fare il sabato sera allo Yab. Basta limonare con un vetro e mezzo. Esatto. E poi propone stanze appositamente attrezzate. Può essere interessante questa cosa. Va bene, lo comunicheremo. Incredibile. Beh, quindi un premietto, premio velocità e premio ottimismo, secondo me. Quindi ben due premi si aggiudica l'Ansa stasera. Glieli faremo avere al più presto. Li spediremo nello spazio cosmico. No, grazie, grazie Ansia. Devo dire che per... Grazie Ansia. Per completezza, come se sì, ti aggiudichi il primo premio, perché veramente hai spaziato... Sono gli unici che hanno scritto. Ah, è per ora, grazie. Per ora. Va però, bene. Però ci hanno detto tutto fondamentalmente, quasi tutto, sì. Cioè una cosa che non cambia tipo è fare l'amore. Cioè se ci si poteva lamentare per la società che c'era prima, quella che adesso ansia ci, insomma, ci descrive è veramente da suicidio di massa. No, è solo da comportamenti meno espansivi. Sono alla giapponese. Sono io un po' troppo. L'accuso un po' troppo. Sta cosa delle discoteche che non t'è andata giù, diciamo la verità. L'accuso un po' troppo. Infatti, io sono per il boh. Come ho detto prima, mi piacerebbe che le nostre entità all'ascolto ci scrivessero più dei loro dubbi, più che delle certezze di un futuro che appunto c'è, cioè, un sacco di variabili, no? Esatto, ricordiamo che Ansia ha partecipato a questo concorso dando voce alla sua immaginazione, alle sue distopie. Adesso non vuol dire che ciò che lei ha proposto si avvererà. Mi raccomando, distopie @gattini.ninja. Distopie @esiliati. No, scusato, sono scazzato. Distopie @esiliati.org. Quello dei gattini ninja. Che figuraccia. Quello è il pad. Frittole @gattini.ninja. Maledetto. E ringraziamo ortiche.net che ci fornisce i servizi. Che fate voi? Ah, grande, ci si prepara. Gran fermento in studio. Dopo questa rubrica del delirio, questa rubrica e verrà il delirio. Ancora la devo imparare. Sì, sono le 20:37 e finalmente Albus e Diesis si sono decisi a farci il pezzone. Va bene, dai, mettiamo mettiamo un pezzo così vi preparate. C'è qualcuno che ci ama. Noi amiamo voi. Però oltre a abbiamo ci scrive anche ah sì, sì. Di più doctor, di più. Ah sì. Grazie. Non avete detto nulla di serio? No. Allora poi continuo a dire: non avete detto nulla del sexting. Mi volete dire che non... Guarda che le... è un po' frustrante. Super diretta, eh? Allora, questo discorso mi interessa. Aspettiamo ancora un istante prima della musica. Ecco dove volevo arrivare. Allora, qui dice: non avete detto nulla del sexting. Mi volete dire che non è il sogno di ogni essere umano organizzare chat sexy su Skype? Allora io... E godere solo di esse? Io rispondo molto velocemente a questa domanda perché mi sono informato e 2 settimane fa è uscito un bellissimo podcast su Stacca Stacca, che è la trasmissione che va in onda su Radio Blackout, la trasmissione di Nerd, che c'ha 20 minuti di approfondimento con degli esperti sul sexting. Per cui adesso ti trovo il sito e te lo linko. Perché, vabbè, niente, noi non ne parliamo perché non siamo abbastanza... Io non sono abbastanza esperto. Va bene, doctor. Ciao Camicia, grazie per esserti rivelato. Qua senza vetro. Vai, vi lasciamo soli e ci prepariamo. Sono smutato, ritorniamo bellamente sulle frequenze. Fateci sentire, ci siete? Ci siamo? Si sente tutto bene? Ci siamo, da ci Dio. Siamo. Vediamo, allora, questa è una canzone di un bravissimo musico che ha passato parte della sua vita a Bologna e ha fatto la storia del rap italiano a Bologna. E quindi salutiamo anche tutti gli amici e le amiche che ci ascoltano da Bologna oppure che hanno lasciato un pezzetto di cuore a Bologna. Quindi salutiamo Betta che ci sta ascoltando. Ciao Betta. E anche Giulia che ci sta ascoltando da Pisa. Ciao Giulia. Proviamo a fare questa musichina, speriamo venga bene. E rimaniamo... Buona la prima. Sì, buona la prima. Rimaniamo sempre in tema polizia virus. Lo sbirro mi punta, rovina le mie passeggiate. Lo sbirro si incanta, lui certe cose non le sa. Lo sbirro si allarga, comunque lui deve mangiare. Sotto controllo, è che il controllo te lo fa. Guardati attorno, c'è la polizia, c'è pure la roba, i soldi girano di qua e di là. Di biancare, lo sbirro si incarica di farci la carica. Lo sbirro è uno sbirro, lo sbirro deve controllare. Chi sotto controllo è chi controllo te lo fa. Guardati attorno, c'è la polizia, c'è pure la roba, i soldi girano di qua e di là. Davvero, meglio dell'originale. Un applauso per noi. Speriamo vi sia piaciuta. Abbiamo aggiunto una seconda voce che è un po' improvvisata, però dai. Ci siamo divertiti, sicuramente. Ci siamo divertiti, vi è divertite. Spaccava i culi, oggettivamente. Grazie, grazie. E grazie a questo c'è Briccobaldo che ci chiede... E il fumo? E il fumo come si comprerà? Come si fa? Giustamente... L'ANSA non ce lo dice. Tutto come prima, non si sa. Dettagli fondamentali. Non si sa, non si sa. Maledetti. Chissà che non ascoltando le nostre domande non ci mandi un altro materiale. Esatto, esatto, perché ricordate, vogliamo sapere quello che pensate, per cui e se il fumo non si trovasse più? Ecco. Esatto, è un lavoro collettivo, quindi lasciatevi influenzare. Scusate, no, ma la risposta è autoproduzione, l'unica soluzione. Bravo Albus. Grazie Albus. Sempre genuino risposta. Clandestino. Ci vorrà un po' comunque. Non è proprio istantaneo. L'anno prossimo. Comunque siete ancora in tempo. Comunque lasciatevi appunto anche influenzare da quello che abbiamo letto e cercate di trovare altre soluzioni anche a questi problemi proprio materiali. Forse Bricco ha già iniziato a fumare spezie dall'armadietto della cucina, speriamo per te di no. No, pure tutte quelle droghe che si trovano in farmacia io penso avranno... No? saranno quelle più usate, le droghe legali. Invece salutiamo Giulia, che a quanto pare ci ha trovato finalmente. Ciao ci, Giulia! Ci cercava, ci ha trovati. Finalmente sì, da Pisa noi. Ci rispondono, grande. Ma li conosci tutti te. Io invito gli amici ad ascoltarci. Ciao Albus, c'ha una rete di conoscenze ovunque. Sì, cioè, ha fatto due puntate, ci ha portato metà degli ascoltatori. Boh. Poi invece vabbè, c'è riscritto anche Martina, che è un po' presa male, dice la storia, la roba dell'ansia gliel'ha fatta prendere un po' male purina, però poi dice che l'importante per lei sarebbe comunque continuare a uscire nelle piazze e bere i vinelli. E ce lo auguriamo tutti questo, chiaramente. Eh sì, non vediamo l'ora. Quindi grazie anche di questo pensiero. Bricco ci informa che lui compra da fumare su Tor. Con Tor. Il futuro è il deep web. Ma poi lo stampi con la stampante 3D? O... come funziona? Arriva Amazon, i corrieri di Amazon che te lo portano. Non sanno cosa c'è nel pacco. Tanto dici, ce ne hanno troppi da consegnare. Anche qui abbiamo una riprova oggettiva, no? del fatto che le nostre vite si sposteranno sempre più sulle piattaforme virtuali, sul web, cioè allo spaccino di carne e ossa. Cioè, come fai? Sul web che fai contratti, no? Cioè, comunque, se volete, la prossima volta si fa una rubrica sulle piante da fumare. Grazie, Rosa, sarebbe Eso bellissimo. È... Ci vediamo mercoledì a Radio Conato. Parliamo di cose serie. E non abbiamo cose serie per il resto della puntata. No, non ce le abbiamo. E c'è anche da dire che abbiamo mantenuto lo stesso mood. Cioè, almeno io ho messo solo sta musica veramente, che all'inizio ci stava bene. Poi adesso iniziano a farcela più. Sì, è che non c'è abbastanza sbronzezza stasera, neanche abbastanza live. Vi invito a tirar fuori un'altra canzonetta dal cilindro. Altre due? Due minuti? Ci dicono due minuti. State su Wombat. Ci è arrivata un'altra mail. Allora, grazie Giulia. Grande. Allora, Giulia dice è quella. Ah, sì, è su quella giusta, cioè ci ha beccato per davvero. E la canzone è stata molto bella. Grazie. Un applausone ancora agli esecutori e agli esecutrici. Grazie che ci stai ascoltando ancora. Grazie. C'è Albus che continua a salutarti. La quinta volta. Grazie. Ma voi non ci avete i cellulari per sentirvi, cioè. Vi sentite tramite noi, tramite radio contatto. Vabbè, è bello. Io vi volevo ringraziare per questo contatto che condividete con le entità che adesso sono 18. 18 entità. Si sono radunate in un sabato questa notte. Comunque sono aumentate quando ho detto la rubrica sulle piante da fumare, ragazzi, io ve lo dico. Ululao alla perfezione. Tocca gululao, tocca gululao. Tocca gululao, gululao. Tocca gululao, tocca gululao. Tocca gululao, gululao. Tocca cululao, tocca cululao. Cignunco parlo con notizie. Ci sono tue offerte e promozioni. Ci sono tue scorte e profumazioni. Tocca cululao, tocca cululao. Tocca cululao, cululao. Tocca cululao, tocca cululao. Tocca cululao, cululao. Oh, tutto caro, tutto caro, tutto caro, tutto caro, tutto caro, tutto caro. Tocca cululao, tocca cululao, tocca cululao, cululao, tocca cululao, tocca cululao, tocca cululao, cululao. Ma giù l'ordato, lo giù botto, con lo sugut e lo calzone, e mo' sta cerco lo prodotto, cululao alla perfezione. Torniamo su Radio Contatto, le frequenze del Wombato, e abbiamo un altro live qua che ci aspetta. Avanti. Beh, sì, sempre in tema Everaldi, giusto? Per la rubrica facciamo una canzone dedicata a questa rubrica e cantiamo Everaldi che innalzerem le barricate. Speriamo sia questo il nostro futuro, forse. Puntini, puntini, puntini. Ci siamo. Volete. Prona la fronte sotto il peso del lavoro, piegata corda lo scudiscio del potente, perché la gioia di chi vive nell'oro, senza di mani il lavoratore morente. Siamo nel valore di una schiavitù tiranna, uniti insieme da sacramental promessa. Sulla terra del tuono, tutti pronti a morire, alla luce del sole, in questa notte di tenebre secolari. Il nero drappo sventola su un carro di fuoco, e redentrice una marcia sempre proletari, l'anarchica gloria alla nuova umanità. E verrà lì che innalzeremo le barricate, e tu borghese salirai la ghigliottina, per non si sorda le destre mate, grida di chi morirà nell'officina. Combatteremo sulla forte pugnale per la lotta finale, l'anarchia salutiamo. In questa notte di tenebre secolari, il nero drappo sventola su un carro di fuoco, e redentrice una marcia sempre. Improvvisatissima, ma ci piace, va benissimo così. Incredibili. Un augurio per il nostro futuro. Bellissima. Grazie. Bellissima, grazie. In quanto improvvisatissima. Grazie, ancora una volta. Ancora una volta ci fate sognare. Ancora una volta Radio Contatto Live. Assolutamente. E voi come va il vostro aperello, aperitivo che, vabbè, date l'orario, sarà diventata una cena. Speriamo una cena molto allegra, una cena alcolica, una cena, non so, piena di sfizi. Sì, essendo... No, basta, sto già... essendo... No, va, metti un po' di tum tum pa. Sì, esatto, esatto. Lasciavo il silenzio proprio perché c'ho la sorpresa. C'ho da salutare un mio caro amico che nel lontano... saranno 6 anni fa e componeva queste cose veramente ignoranti. E niente, ce l'ho per voi, è abbastanza fuori tema, ma mi dispiace. Viva l'ignoranza! Viva l'ignoranza! Vi salutiamo, ci sentiamo venerdì prossimo, buona cena! Buona cena, un saluto a tutte e tutti! Ciao! Buona cena, buonanotte! Ciao. E non ti mi si raccomando, sentito. Ricordatevi! E niente, buona cena! Scriveteci, mi raccomando. Buona cena, un saluto a tutte e tutti. Torneremo con le nostre canzonette ancora. Aspettateci. Oh, questa è un'ottima notizia. È un ottimo saluto. Assolutamente. E carissime entità, ricordatevi del concorsone. Sì. E costruiamo insieme il nostro futuro e lo faremo anche attraverso quello che ci scrivete e che condivideremo tutti insieme. Assolutamente. Grazie, grazie. Boom. Doctor. Aiutateci distopie a costruire il futuro. Distopie chiocciola esiliati.org. E va bene, grazie per essere state con noi davvero. La mando, la mando. Manda, manda. Occhio ai timpani. Ciao. Thank you.